quegli occhi belli, pieni di luce calde ed infinita. Mi son dimenticato i suoi capelli e la boccuccia che era la mia vita. Ma sogno notte di la mia casetta, la mia vecchietta che sempre aspetta l'amore del paese e della mamma. È una gran fiamma che brucia il cuore. Quanta tristezza, quanta nostalgia. Sono il ricordo dell'Italia mia. Se non